giorno. Le notizie in 60 minuti. È morto Carlo Azeglio Ciampi, aveva 95 anni, era stato Presidente della Repubblica dal 99 al 2006, governatore della Banca d'Italia dal 79 al 93. Era ricoverato, da alcuni giorni i funerali saranno a Roma. Primo vertice europeo dopo Brexit a Bratislava. Renzi, la stabilità più importante è quella dei nostri figli. Merkel, la situazione è critica, ora servono fatti concreti. Roma scivola sul marciapiede, la metropolitana bagnato per la pioggia, cade sotto il treno, è grave, un sedicenne ma non rischia la vita. Deutsche Bank, il Dipartimento di Giustizia americano chiede un maxi risarcimento, 14 miliardi di dollari per aver sottovalutato i rischi dei titoli venduti ai risparmiatori. Maltempo, nubifragi, allagamenti in Sardegna e Lazio, esondato il fiume Marta, in provincia di Viterbo, a Cagliari oltre 200 richieste di soccorso a rischio nelle prossime ore, Veneto, Friuli, Umbria e Marche. Il caso di Tiziana Cantone, parla il garante della privacy, i magistrati che non hanno bloccato la diffusione hanno sbagliato, la legge vieta la pubblicazione dei contenuti sensibili senza il consenso. Buongiorno da Alessio Maurizi e benvenuti a Effetto Giorno, l'appuntamento con le notizie di metà giornata. Cominciamo subito con la notizia che ha addolorato tutti noi, è il caso di dirlo, è morto Carlo Azeglio Ciampi, avrebbe compiuto 96 anni a dicembre, era in realtà ricoverato da alcuni giorni perché le sue condizioni di salute si erano aggravate. E allora abbiamo la possibilità di avere in collegamento un uomo che lo ha conosciuto molto bene, Carlo Azeglio Ciampi, è un collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Ciao, buongiorno Dino. Buongiorno Alessio. Buongiorno, esperto di Quirinale, naturalmente, di cui scrivi sul Sole 24 Ore, ma soprattutto hai intervistato tantissime volte, sei un biografo, possiamo dirlo, che hai scritto anche un libro su Carlo Azeglio Ciampi, una figura istituzionale di lunghissimo corso, una carriera lunghissima. Possiamo anche ricordare alcuni dei passaggi fondamentali di questa carriera, Dino? Sì, Ciampi nel 1960 viene chiamato in Banca d'Italia e là comincia la sua ascesa, che è un'ascesa veramente fulminea, perché nel 10 anni dopo dirige il Centro Studi e nel 69 viene nominato governatore. Questa lunga permanenza ai vertici della Banca d'Italia è fondamentale per Ciampi. Dino Pesole, facciamo una cosa, siccome l'audio non è della tua telefonata non è eccellente, facciamo sentire un paio di estratti di audio invece della presidenza di Carlo Azeglio Ciampi, poi proviamo a ricollegarci anche con te, continueremo quindi a parlare, diciamo, a ricordare la figura di Ciampi. Sentiamo intanto i pochi secondi di proclamazione di Carlo Azeglio Ciampi, eletto Presidente della Repubblica. Questo era Luciano Violante quando era Presidente della Camera. Sentiamo. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. E poi poco dopo, quando avvenne il discorso di insediamento dell'allora Presidente della Repubblica Ciampi, sentiamo un passaggio del suo intervento, un passaggio importante per lui che era un europeista convinto. Sentiamo quando parla d'Europa. Oggi in quest'Aula non sento soltanto la voce della comunità italiana che vive ed opera nei confini della Repubblica, sento anche quella degli italiani che vivono la loro cittadinanza nel territorio dell'Unione rappresentata dal Parlamento europeo. Eccolo qua, allora Dino Pesole, stavamo dicendo insomma una personalità, stiamo ricordando la carriera lunghissima istituzionale di Ciampi, grande qualità ma anche grande umanità, un tuo anche ricordo personale di Ciampi che tu hai incontrato tantissime volte. Sì, guarda, il mio rapporto con Ciampi si divide sostanzialmente in tre fasi, quella in cui da Ministro dell'Economia, e questo devo dire negli anni, metà degli anni 90, 96, 98, il capolavoro di Ciampi, cioè quello di riuscire sostanzialmente a vincere le resistenze che erano fortissime in Europa. Ricordo le sue lunghissime conversazioni con il ministro olandese che era Gerrit Salm, ma anche con i tedeschi, cercare di convincere che l'Italia era sulla buona strada, e quello è la prima parte del nostro rapporto. Poi durante il settennato, diciamo un rapporto più istituzionale, perché in quanto quirinalista lo seguì per tutti i 7 anni, e poi dopo si apre una fase per me assolutamente imprevista, imprevedibile, quando da senatore a vita, più volte ci siamo incontrati nel suo studio, e devo dire è la parte che io ricordo con maggiore entusiasmo, ma è stato un periodo bellissimo, uno scambio continuo di punti di vista, perché il presidente Ciampi aveva una grande dote, quella di sapere ascoltare. E devo dire che dobbiamo tutti qualcosa al presidente Ciampi, non solo perché ci ha portati in Europa, non solo perché ci ha insegnato quali sono poi i valori, l'identità, e riuscire a riscoprire anche in un momento assai difficile per il nostro paese l'ancoraggio all'identità nazionale. È riuscito a trasmettere questi valori, e devo dire che lui ha visitato tutte le province italiane ed è stato un successo clamoroso. Cioè il presidente Ciampi è stato uno dei più amati dagli italiani. Assolutamente, assolutamente. In questo senso mi sento un po', come dire, partecipe di tutto ciò. Grazie Dino Pesole. Parole quelle sull'Europa erano forse altri anni, ma sicuramente una voce come quella di Ciampi sarebbe stata utile, interessante, stimolante proprio sul tema Europa, che è al centro tra l'altro oggi di un vertice a Bratislava. Ne parliamo tra pochissimo. Prima però con Elisabetta Fiorito veniamo ai commenti, le reazioni politiche alla scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. Buongiorno Betta. Sì, buongiorno. Arrivano condoglianze e contestazione per la morte di Carlo Azeglio Ciampi. Il primo è il presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'abbraccio del governo alla signora Franca e un pensiero grato all'uomo delle istituzioni che ha servito con passione l'Italia. Un modello di virtù per il presidente del Senato Pietro Grasso. Dal PD vice segretari Serracchiani Guerini salutano un grande italiano. La sua lezione sarà l'esempio tra i più significativi della nostra storia. Ci lascia uno dei padri, scrive l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta. Cordoglio anche della sinistra italiana, che ricorda lo statista e l'antifascista. Per Forza Italia parla Renato Brunetta, che invece mette il punto sull'economista, il politico e il servitore dello Stato. Fuori dal coro ed è polemico Matteo Salvini della Lega, che al di là del cordoglio definisce Ciampi politicamente uno dei traditori dell'Italia e degli italiani, al pari di Napolitano e Prodi. A te Alessio. Grazie Elisabetta Fiorito. E adesso, come detto, la pagina europea in senso stretto, perché a Bratislava è in corso il vertice europeo, il primo tra l'altro che si svolge tra capi di Stato e di Governo senza la Gran Bretagna, senza l'inquilino di Downing Street, Theresa May. Le frasi di Matteo Renzi in apertura: la stabilità più importante è quella dei nostri figli, prima ancora della stabilità delle regole europee. Ma c'è anche una frase di Angela Merkel che dice: la situazione è critica, adesso servono fatti concreti. Andiamo a Bratislava con Gerardo Pelosi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. Sì, ricordavate il tweet di Renzi che ha preso della morte del presidente emerito Ciampi, mentre dalla riunione del PSE e l'incontro con Juncker si stava recando al castello di Bratislava proprio per la sessione plenaria di questo vertice, il primo senza l'Unione Europea. E i temi della flessibilità di bilancio e dell'agenda europea sono sul tavolo di questo vertice, e uscendo dalla riunione con Juncker Renzi ha ricordato la stabilità più importante, appunto quella dei nostri figli. Tutto ciò che ci serve, ha aggiunto, per rimettere a posto l'edilizia scolastica in Italia dopo il terremoto, va liberato dalle grinfie delle regole di stabilità. Ovviamente su questo si aprirà un confronto serrato con la Commissione europea nelle prossime settimane, e ancora di più dopo l'approvazione della legge di stabilità in ottobre. I temi che sono sul tavolo del vertice sono quelli del futuro dell'Unione dopo l'uscita della Gran Bretagna, il tema del terrorismo, il tema della difesa comune dopo un documento franco-tedesco che individua in un quartier generale congiunto il nocciolo duro della nuova difesa europea, e poi ovviamente i temi anche della lotta al fondamentalismo islamico e al terrorismo. Come ricordavi, la Merkel ha ricordato che sono dei passaggi molto critici per una situazione molto critica dell'Unione Europea, che impone di migliorare e rafforzare l'azione appunto sui temi di sicurezza, lotta al terrorismo, creazione dei posti di lavoro. Saremo il presidente francese sì. Hollande invece è possibilista e dice che c'è un accordo di fondo con la cancelliera Merkel e con il primo ministro italiano Renzi, e quindi riaffermando la volontà di questa nuova triade, di questo vagone di testa Francia, Italia e Germania, di guidare il futuro dell'Europa. Benissimo. E da Bratislava è tutto. Grazie a Gerardo Pelosi. Adesso chiudiamo questa pagina politica con le notizie che riguardano la pagina politica, perché c'è attesa per un fine settimana importante per il centrodestra. Ci sono almeno due appuntamenti che però arrivano in ordine sparso. Da una parte Matteo Salvini, dall'altra Stefano Parisi, da una parte il tradizionale Pratone di Pontida con tutto il suo folklore, dall'altra la convention Energie per l'Italia nello spazio Megawatt di Milano. Due eventi, due idee di centrodestra, con l'obiettivo, anche se non dichiarato, di presentarsi come futuri leader della coalizione. Da Pontida Matteo Salvini lancia i tre no al referendum costituzionale, all'Unione Europea, all'immigrazione, e marca subito la distanza con Parisi. Alle idee opposte alle nostre, in particolare sull'Europa, ha scelto il lato del marciapiede sbagliato, dice il leader della Lega Nord. Al raduno partecipa anche Giovanni Toti, ufficialmente in veste di governatore della Liguria, insieme ai presidenti di regione Luca Zaia e Roberto Maroni, ma nei fatti per dimostrare la volontà di voler costruire un centrodestra che a suo dire ha nel carroccio il principale interlocutore. Grande attesa anche per la convention di Stefano Parisi, che si apre alle 14.30 e che rappresenta il battesimo ufficiale di una nuova creatura politica che si pone come obiettivo quello di riconquistare gli elettori delusi. Nessun big politico salirà sul palco, riservato solo ad esponenti della società civile, sindaci e amministratori locali, con cui l'ex manager ha intenzione di scrivere, dice, una vera e propria agenda di governo. Occhi puntati in particolare sul suo discorso conclusivo di domenica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ora la cronaca ci porta a Roma. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita il ragazzino che è finito stamattina sotto un convoglio della metropolitana alla stazione Eur Fermi di Roma. Il ragazzo di 15 anni, non 12 come riferito in un primo momento, ha riportato un trauma toracico, gli sarebbe stata subito un intervento chirurgico. Ma cerchiamo di capire anche qual è la dinamica di questo ennesimo incidente nella metropolitana di Roma con Chiara Piselli. Buongiorno Chiara. Sì, buongiorno Alessio. Dunque, piove nella capitale, piove da questa mattina, continua a piovere, ma oggi oltre agli allagamenti, il traffico in tilt e soliti disagi da maltempo per cui è nota la capitale, alcune persone hanno anche rischiato la pelle. Anzitutto il primo forte nubifragio della mattinata ha fatto cadere numerosi alberi in diverse zone. In un caso in particolare, uno di questi è caduto su una pensilinea del bus e ha ferito quattro persone, oltre all'incidente di cui parlavi prima. Quindi due di queste persone sono state trasportate in codice giallo all'Umberto I e altre due sono invece state medicate sul posto. Grande spavento chiaramente nei dintorni, tra i passanti, perché nell'impatto anche i cavi dell'elettricità sono stati divelti. E invece l'altro incidente, forse molto più grave, è quello che hai accennato tu, che vede protagonista questo ragazzino di 15 anni che è scivolato sulla banchina allagata, dunque appunto molto scivolosa, della stazione metro Eur Fermi sulla linea blu, ed è stato poi travolto da un treno della metropolitana. Non è in pericolo di vita, ma è molto grave perché appunto ha riportato un trauma facciale e toracico e anche lesioni alla mano. In particolare avrebbe perso una falange, che poi è stata recuperata e sarebbe stata portata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove adesso il ragazzo è ricoverato, è stato trasportato lì immediatamente in codice rosso. Ora, mettere in sicurezza fermate, bus e stazioni metro è chiaramente responsabilità dell'ATAC, l'azienda di trasporto pubblico della capitale, che ha fatto sapere di aver attivato subito immediatamente i soccorsi e che sulla dinamica dell'accaduto stanno lavorando gli organi investigativi. Poi chiaramente la mattinata è stata molto complicata per tutti i romani e per i pendolari, circolazioni in tilt, code a tratti su strade consolari, sulla tangenziale est, sulla Roma Fiumicino, anche sul grande raccordo anulare, sottopassi allagati, anche alcuni mezzi pubblici addirittura allagati, come il caso della Roma Lido, dove l'acqua è penetrata in treni e stazioni, con persone che addirittura sono state costrette ad aprire l'ombrello. Staremo ora a vedere cosa succede nel corso della giornata. Grazie Chiara Piselli. Del maltempo parleremo ancora più avanti, soprattutto per le situazioni più gravi che si sono create anche in Toscana, in Lazio e in Sardegna. Adesso il caso di Tiziana Cantone, perché parla il garante della privacy, Soro, che smentisce i magistrati sul caso del video diffuso in rete. L'obiezione dei pubblici ministeri spiega il garante a Sky TG24 alla denuncia di Tiziana Cantone nell'ottobre 2015 per violazione della privacy, secondo la quale sarebbero mancati i riscontri del divieto di diffusione, è assolutamente contro la legge italiana, che invece prevede la diffusione dei dati sensibili debba avvenire solo con il consenso esplicito dell'interessato. Quindi, ha concluso il garante della privacy, mi permetto di dire che quella valutazione, se fatta dal procuratore, non è fondata, e queste sono parole che naturalmente non mancheranno di suscitare ulteriori reazioni. Adesso siamo allo sport, cominciamo con l'appuntamento delle Paralimpiadi, perché come sapete abbiamo dedicato a questo avvenimento alcuni ritratti di grandi campioni, l'ultima puntata. Oggi la chiudiamo con una bandiera dello sport e della lotta all'inclusione. Luca Pancalli. Prima il nuoto, poi il pentathlon moderno, disciplina inventata da De Coubertin in persona e che racchiude nuoto, scherma, tiro, equitazione e corsa. Bruciava forte nel cuore del giovane Luca Pancalli la passione per lo sport. Oggi, come allora, quando proprio in una gara di pentathlon si ritrovò in sella a un cavallo davvero nervoso. Cavaliere provetto, però, già a 17 anni Luca, giovane promessa della nazionale azzurra. La vittoria è vicina, manca solo un ultimo ostacolo. Affrontai questo ostacolo, che era il penultimo senza staffe, e poi dopodiché me l'hanno raccontato. Sembrerebbe che il cavallo si è piantato, io sono volato oltre le barriere, poi il cavallo comunque ha saltato, lo stesso cavallo ha inciampato con gli anteriori sulle barriere e poi mi è praticamente rovinato addosso, e lì il cap, che è questo caschetto che si porta a cavallo, mi si è sfilato, mi si è messo, diciamo, tra la spalla e il collo. Io stavo a pancia sotto, nel momento in cui il cavallo è arrivato con tutto il suo peso, mi ha fatto da leva e mi ha spezzato il collo. Qui finisce la carriera del Pancalli sportivo normodotato e inizia quella del campione paralimpico. 8 ori, 6 argenti e 1 bronzo nelle varie specialità del nuoto. Ma di più, se possibile, Pancalli ha fatto e sta facendo come dirigente sportivo. Numero 1 storico del Comitato Paralimpico, vicepresidente del CONI, commissario straordinario della Federcalcio negli anni del dopo Calciopoli e dell'omicidio Raciti, è ora vicepresidente del Comitato per la candidatura olimpica di Roma 2024. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ancora per il calcio, si è completato ieri sera con l'Europa League l'esordio delle italiane appunto nei tornei europei, con Luci, Poche, Sassuolo, Carlo Genta, ciao, buongiorno, benvenuto. E qualche, Alessio, buongiorno a tutti. Qualche ombra, Roma, Fiorentina, ma ombre che diventano scurissime sull'Inter. Beh, scurissime certo, perché l'Inter perde 2-0 con l'Apoel. È un Inter in un momento difficile, anche facilmente pronosticabile, visto il cambio dell'allenatore a poche ore dall'inizio della stagione. Però, francamente, questa sconfitta apre 1000 interrogativi. Solo il Sassuolo, hai detto bene tu, riesce a saltare il suo ostacolo, 3-0 contro l'Athletic Bilbao, che pure non è una squadra di ultimissima fascia. Poi ci sono problemi anche per la Fiorentina, 0-0 con il PAOK, la Juventus l'abbiamo vista in Champions League non brillare con il Siviglia. Speriamo siano solo piccoli incidenti e piccoli infortuni di inizio stagione, di un settembre ancora molto caldo. Certo che sull'Inter si addensano pesanti ombre per quanto riguarda il futuro, perché De Boer aveva chiesto tempo. Giusto concedergli del tempo, però bisogna capire quando, alla fine di questo tempo concesso all'allenatore olandese, quali saranno le condizioni dell'Inter. In questo momento non benissimo, tanto più che domenica c'è la Juventus. Grazie Carlo, appuntamento naturalmente con tutti i convocati più tardi. Adesso noi invece ci fermiamo per il traffico, a tra poco. Effetto giorno. È morto Carlo Azeglio Ciampi, aveva 95 anni, era stato Presidente della Repubblica dal 99 al 2006, Governatore della Banca d'Italia dal 79 al 93, era ricoverato da alcuni giorni, i funerali si svolgeranno a Roma. Primo vertice europeo dopo Brexit a Bratislava, Renzi, la stabilità più importante è quella dei nostri figli. Roma scivola sul marciapiede della metropolitana, bagnato per la pioggia, e cade sotto un convoglio. È grave, ma non rischia la vita un ragazzo di 15 anni. Deutsche Bank, il Dipartimento di Giustizia americano, chiede un maxi risarcimento, 14 miliardi di dollari, per avere sottovalutato i rischi dei titoli venduti ai risparmiatori. Adesso il titolo Deutsche Bank affonda in borsa. Maltempo, nubifragi e allagamenti in Sardegna e Lazio. Nelle prossime ore a rischio Veneto, Friuli, Umbria e Marche. E allora ripartiamo dalla notizia del maxi risarcimento chiesto al Dipartimento della Giustizia americano a Deutsche Bank per chiudere lo scandalo sui titoli tossici legati ai mutui subprime, una cifra tra le più elevate finora mai richiesta ad una banca per aver ingannato, questa è l'accusa, gli investitori sui rischi di questi titoli sottovalutandoli. E con noi Flavia Carletti di Radio Cor. Ciao Flavia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto ti chiedo quali sono state le reazioni di borsa, sicuramente pesanti per quanto riguarda il titolo, ma ne parleremo più avanti con l'appuntamento sui mercati finanziari, ma insomma in Germania ha questa notizia abbastanza importante. Beh sì, Deutsche Bank in questo momento sta perdendo l'8% e comunque le vendite, proprio come conseguenza di questo, stanno investendo tutto il comparto bancario europeo. E tornando alla notizia, come dicevi tu, il Dipartimento di Giustizia statunitense, che dal mese di luglio sta trattando con Deutsche Bank per chiudere questa questione sulla vendita di bond garantiti da mutui, quelli subprime, prima dello scoppio della crisi del 2008, e la cifra che è stata avanzata dal Dipartimento è quella di 14 miliardi di dollari. La reazione di Deutsche Bank è stata immediata, dopo l'indiscrezione fatta uscire da Wall Street Journal, dicendo che è inaccettabile questa richiesta, che loro continueranno a trattare e comunque che puntano a chiudere per una cifra più bassa, come è stato fatto per altre banche. La cifra dei 14 miliardi di dollari al momento sarebbe la seconda più alta mai chiesta dal Dipartimento di Stato americano. Quella, la banca che fino adesso ha pagato di più per questi scandali, è stata Bank of America, che ha sborsato nel 2014 16,65 miliardi, mentre invece per esempio una banca come Goldman Sachs se l'è cavata con una cifra più bassa pari a 5 miliardi. E infatti gli stessi analisti sono rimasti sorpresi da questa richiesta di 14 miliardi, tanto che fino adesso loro nelle loro stime erano andati sempre su cifre molto più basse, tra i 2 e i 5 miliardi di dollari, tanto che diciamo si sono basati probabilmente anche su quelli che erano gli accantonamenti di Deutsche Bank per le spese legali e contenziosi, che ammontano a 5 miliardi e mezzo di euro, pari a circa 6,2 miliardi di dollari. Va bene, grazie Flavia Carletti, ci fermiamo qua. Una vicenda comunque questa che avrà sicuramente degli sviluppi giudiziari, perché si tratta di un contenzioso, e quindi vedremo come andrà a finire. Adesso invece ci spostiamo in Sardegna, in particolare per questa giornata caratterizzata dal maltempo. Abbiamo già fatto la cronaca di quello che è successo a Roma, invece in Sardegna una bomba d'acqua accompagnata dalla furia del vento e della grandine ha investito Cagliari e tutta la parte sud della regione. C'è un'allerta della Protezione Civile regionale che era stato diramato stamani già tra le 4.30 e le 5.20, e quindi ne facciamo il punto con Manuela Azzeni, dirigente della Protezione Civile del Comune di Cagliari. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Tantissime le richieste di intervento questa mattina proprio a Cagliari. Cosa è successo? Qual è la situazione al momento? Allora, al momento stiamo ripristinando la normalità, quindi diciamo che la città è comunque tornata all'ordinarietà. Piuttosto stamattina verso le 4.40, verso le 4.50 ci siamo resi conto di che era in corso proprio una vera e propria tempesta, però in realtà non avevamo ricevuto nessun bollettino di criticità di allerta per la criticità idrogeologica. E quindi la situazione, stavo dicendo, state cercando di riportarla alla normalità. Noi ci auguriamo che questo accada naturalmente. Ci sono dei danni particolari da segnalare, delle situazioni particolari? La situazione si può dire diciamo ritornata ormai alla normalità. I danni fortunatamente sono stati soltanto danni alle strade, perché diciamo che i danni più gravi sono stati quelli del salto dell'asfalto in alcuni punti della città. E l'acqua, diciamo, nella mezz'ora in cui è caduta più intensamente ha spostato alcuni veicoli, alcuni cassonetti. Fortunatamente non c'è stato nessun danno alle persone. Meglio così, naturalmente. Grazie alla dirigente della Protezione Civile di Cagliari, Manuela Azzeni. Adesso invece ci spostiamo su un altro argomento. L'Unione Sindacale di base, l'USB, ha proclamato per oggi 2 ore di sciopero a fine di ogni turno per tutti i settori, le aziende e le società del lavoro privato. La mobilitazione si aggiunge allo sciopero nazionale di 24 ore nel settore della logistica, scattato alle 5 di ieri mattina dopo la morte dell'operaio egiziano travolto e ucciso da un tir durante un presidio davanti ad un'azienda di logistica. Per la procura si è trattato di un incidente. L'episodio però ha acceso i riflettori sul comparto, quello della logistica, che è spinto dalla rivoluzione digitale e dal boom dell'e-commerce, sta attraversando una grande rivoluzione, oggetto di molte vertenze sindacali. Un sistema fatto di appalti, subappalti, con pochi controlli, lavoratori spesso molto sfruttati. Maria Luisa Pezzali ne ha parlato con Michele Costabile, direttore alla LUIS del Centro di Ricerca su Consumi e Tecnologie. Il tema è estremamente complesso perché da un lato ci sono delle frizioni inevitabili, cioè in presenza di forti cambiamenti le imprese per sopravvivere sono portate a flessibilizzare i costi e ovviamente a ricercare tutte le efficienze possibili e immaginabili, e questo inevitabilmente porta alcuni operatori, se non purtroppo molti, a diciamo non rispettare alcune regole fondamentali di natura sindacale o di tutela dei lavoratori, per non parlare di tutti i fenomeni poi illeciti o quantomeno occulti che riguardano questa organizzazione flessibile. Tutto questo purtroppo richiede un adeguamento delle modalità con cui questi processi organizzativi, che non sono aziendali ma che sono del mercato del lavoro, vengono tenuti sotto controllo. È naturale che le imprese reagiscano cercando la flessibilità, è naturale purtroppo che vi siano comportamenti o illeciti o comunque non leali, scorretti anche dal punto di vista della concorrenza. Non ci sono soluzioni, perché il cambiamento tecnologico è ineludibile, se non quella di un'attenzione e di un sistema di controlli che, quello sì, grazie alle tecnologie può essere migliorato e reso più efficace. Questa dunque è la situazione nel settore della logistica. Adesso noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con i titoli, la borsa e le altre notizie. Effetto giorno. Morto Carlo Azeglio Ciampi, avrebbe compiuto 96 anni a dicembre, era stato Presidente della Repubblica dal 99 al 2006, era ricoverato da alcuni giorni grazie all'uomo delle istituzioni, dice Renzi. Primo vertice europeo dopo Brexit a Bratislava, Merkel, la situazione è critica, ora servono fatti concreti. Scivola sul marciapiede della metropolitana a Roma, bagnato per la pioggia e cade sotto un treno, è grave ma non rischia la vita un ragazzo di 15 anni. Deutsche Bank, il Dipartimento di Giustizia americano chiede un maxi risarcimento, 14 miliardi di dollari per avere sottovalutato i rischi dei titoli venduti ai risparmiatori. Maltempo con nubifragi e allagamenti in Sardegna e Lazio, esonda il fiume Marta in provincia di Viterbo, nelle prossime ore a rischio Veneto, Friuli, Umbria e Marche. Il caso di Tiziana Cantone, parla il garante della privacy, i magistrati che non hanno bloccato la diffusione hanno sbagliato, la legge vieta la pubblicazione dei contenuti sensibili senza il consenso. E adesso vediamo qual è la situazione in borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e ben ritrovati con Effetto Giorno. Abbiamo aperto questa edizione con la notizia della morte di Carlo Azeglio Ciampi. I funerali si svolgeranno a Roma, era ricoverato da alcuni giorni in realtà per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Sentiamo questa mattina, è intervenuto a Melog con Gianluca Nicoletti, il ricordo, le parole di uno dei più grandi giornalisti di politica italiana degli ultimi anni, Giampaolo Panza. Un grande galantuomo, è stato un grande presidente della Repubblica, una grande persona, un uomo affabile, io l'ho conosciuto, lascerà un ottimo ricordo. Per questo paese ha fatto molto e quindi ha fatto molto anche per me, in fondo. Io sono sempre stato un suo estimatore. Penso che lui conoscesse i miei articoli. Poi io non sono uno di quei giornalisti che vanno a cercare delle conoscenze o dell'intimità o delle amicizie con uomini delle istituzioni importanti come è stato lui. Carlo Azeglio Ciampi, quando era Presidente della Repubblica, ha deciso di fare due grandi ufficiali della Repubblica. Uno ero io, ma soprattutto l'altra, che dimostrava la sua larghezza di vedute, era Nella Picci. Mi sono sentito, come dire, il destinatario di un regalo straordinario, non soltanto perché arriva da un galantuomo come Carlo Zeglio Ciampi, che non dimentichiamolo, aveva una moglie altrettanto straordinaria, perché succede sempre così, a un grand'uomo di solito lo si dimentica, ma dietro di lui c'è sempre una grande donna, ed è un bellissimo ricordo. Così Giampaolo Panza a proposito di Carlo Azeglio Ciampi a Radio 24. Adesso torniamo nuovamente sul caso di Tiziana Cantone, perché mentre si discute sulla legge e sull'oblio con il garante della privacy, lo abbiamo appena detto, che critica i PM che non hanno bloccato la diffusione del video in rete, la Camera in realtà sta valutando un disegno di legge proprio sul cyberbullismo, già approvato dal Senato, il 20 settembre prossimo dovrebbe essere votato anche dalla Camera, ieri l'approvazione dei primi articoli, ma nel passaggio tra le due Camere il testo è cambiato ed è stato esteso a tutti, non più soltanto ai minori. Una volta che avevamo una legge specifica sui minori poteva essere lasciata così, sono queste le perplessità della senatrice Elena Ferrara, che è la prima firmataria di questo disegno di legge al Senato. Lei è stata anche la professoressa di Carolina, la prima ragazza suicida dopo la diffusione di un video hard in rete. Temo, dice la Ferrara, che il meccanismo allargato a tutti possa incepparsi. Sentiamola al microfono di Raffaella Calandra. Il disegno di legge era per la tutela dei ragazzi che si fanno male tra loro ad un'età sempre più bassa. La eliminazione dal testo nel passaggio dal Senato alla Camera di quella sottolineatura, cioè che la legge sul cyberbullismo persegue tutta una serie di reati in danno di minore, secondo lei sta indebolendo l'intera legge? Credo che bisogna lasciar finire il lavoro che la Camera ha comunque iniziato. Segnaliamo che lo spirito originario della legge era quello invece di essere puntuali sui minori, proprio per dare maggior forza anche alle misure che noi avevamo individuato e che sono misure che rientrano un po' in un quadro europeo dell'autoregolamentazione. Se ci fosse stata la legge sul cyberbullismo, Tiziana, la donna di cui ora si parla, avrebbe avuto qualche strumento in più a suo favore? Lei la rimozione l'ha ottenuta comunque, forse ci sarebbero stati tempi magari più stringenti. Il che vuol dire meno tempo di esposizione anche al pubblico ludibrio. Bisogna chiaramente che si legga attentamente i termini per i quali le aziende titolari dei trattamenti debbano intervenire a fronte di una segnalazione. Se la segnalazione arriva da una persona adulta e molte persone adulte si ritengono offese, bisogna vedere se questo meccanismo continua a funzionare oppure è un meccanismo che si inceppa, perché poi quel contenuto potrebbe essere offensivo, potrebbe essere semplicemente una critica. Noi cosa facciamo? Lasciamo all'azienda la possibilità di decidere? Ecco, chi è che poi appunto valuta se effettivamente quei video sono effettivamente lesivi dell'onore oppure no? Cioè allora, è una scelta caso, che poi allora viene lasciata a Facebook, a YouTube, oppure sarà un giudice? Un adulto deve fare una denuncia e sarà un giudice che lo decide. Avevamo pensato invece che nel caso appunto di minori ci potesse essere una forte alleanza e si potesse pensare che quel contenuto potesse anche essere valutato in prima istanza già dalla titolare del trattamento dei dati, che prestasse una particolare attenzione. E vi ricordiamo che di cyberbullismo e legge sull'oblio si tornerà a parlare domani in Storiacce alle 21:30, sempre su Radio 24. Adesso, viabilità.